Questa iniziativa si inserisce nell'ambito di tutte queste iniziative realizzate sia dal Comune che dalla provincia nella settimana che va appunto dal 23 al 27 di gennaio. È una settimana particolare, il 27 è la giornata decretata per ricordare la Shoah, e ogni anno anche questa biblioteca contribuisce con la presentazione di libri, aggiorna una bibliografia che è anche online consultabile. E soprattutto cerchiamo di così dare spazio e rilievo ad alcune iniziative che possono aiutare a coinvolgere la popolazione, a stimolare la conoscenza e soprattutto anche un approfondimento di alcune tematiche. Quest'anno, insieme a questa prova generale a cui assisteremo fra poco, la biblioteca ha portato dei libri, una bibliografia, ha creato così una panoramica di quello che è l'aggiornamento bibliografico presso il foyer del Teatro Cristallo, per cui tutti i giorni, compreso venerdì 27, insieme anche all'ANPI, questa biblioteca offre degli spunti di lettura. Chiunque fosse interessato può passare nel foyer e dare un'occhiata. Questa sera assisteremo alla prova aperta di uno spettacolo che poi avrà invece luogo a Cracovia e ci viene offerto dai ragazzi del Treno della Memoria che partiranno appunto giovedì il 26 gennaio da Bolzano. Invito Alexander Huber a dirci due parole sul Treno della Memoria, su questa iniziativa che si ripete qui a Bolzano. Saluto i colleghi dell'Ufficio Giovani che ci hanno dato una mano anche per questa iniziativa e sono coinvolti in questo Treno della Memoria. Saluto anche l'ARCI e in particolare vorrei anche rivolgere un saluto alla comunità ebraica. Questa sera è qui con noi Simeone Bordon e gli amici anche dell'ANPI e tutti voi che avete accolto il nostro invito. Prego. Ah, buonasera a tutti, sono Alessandro Huber dell'Associazione Terra del Fuoco che in partnership con Age IoT, Abendgemeinschaft Jugenddienste e ARCI Ragazzi porta avanti il progetto Treno della Memoria ormai da 2 anni in provincia di Bolzano. Il Treno della Memoria coinvolge quest'anno, come lo scorso anno, 150 ragazzi della provincia, nella fattispecie suddivisi in gruppi, 3 su Bolzano, 2 su Merano, uno su Bressanone, uno su Brunico e Santi in Taupo, e i ragazzi appunto svolgono un percorso, quello che è un percorso educativo, oltre che di storia e di memoria, e si suddivide in 2 fasi principali, che una è la fase preparatoria al viaggio di per sé, che come appunto ha anticipato partirà il 26 di gennaio dalla stazione di Bolzano. Saliremo su questo treno che parte dalla stazione di Verona, dove carica i ragazzi della provincia di Forlì-Cesena, poi prosegue per Trento, dove carica i 450 ragazzi della provincia di Trento, e infine per Bolzano, dove carica i 150 sudtirolesi. E staremo a Cracovia per 4 giorni. In queste giornate visiteremo i luoghi dello sterminio, non per fare turismo dell'orrore, turismo del macabro, ma semplicemente per far vivere ai ragazzi quella che è la storia, che sono stati i luoghi che hanno visto quelle persone, che hanno vissuto quelle persone. Noi cerchiamo di ripercorrere le loro tracce, soprattutto con l'intenzione di coinvolgere i ragazzi in una diversa trasmissione della storia della memoria e di rendere loro stessi poi testimoni di quello che è stato. I testimoni purtroppo per questioni anagrafiche cominciano a non esserci più, quelli che erano sopravvissuti ovviamente, e per cui noi sentiamo forte questo bisogno, questa necessità e questo entusiasmo nel trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza di quello che è stato non troppi anni fa, non troppi chilometri di distanza. La fase primaverile prosegue poi con altri incontri in cui i ragazzi elaborano le forti emozioni che hanno vissuto e si va a concludere il 25 d'aprile all'interno del Festival delle Resistenze in Piazza Matteotti con una restituzione alla cittadinanza e speriamo un coinvolgimento ancora teatrale. Io vi ringrazio e adesso abbiamo Cristian Mai che ci parla invece dello spettacolo. Sì, buonasera a tutti, sono stato il prescelto per salutarvi, è facile perché con un gruppo di 10 donne e un maschio, io, hanno mandato avanti me. Volevo solo parlare un po' del progetto teatrale che andrete a vedere. È una prova quello che vedete oggi, Le ragazze andranno poi a Cracovia, come ha detto Alessandro, e presenteranno questo spettacolo. La prima sarà, credo, il 28, se non mi sbaglio, il 28 gennaio in un teatro a Cracovia. Sono molto agitate, è la prima volta che recitano davanti a un pubblico questo pezzo, è una prova, abbiamo avuto poco tempo qua per provare, però siamo molto io e le mie colleghe siamo molto orgogliosi di queste sette ragazze che da novembre lavorano con noi, possiamo noi a lavorare con loro. Le mie colleghe sono Flora Sarrubbo, Chiara Visca e Finuta Tiner. Da novembre lavoriamo al Pippo con queste ragazze. Und es ist ein zweisprachiges Projekt. È un progetto bilingue, also auf Deutsch und auf Italienisch. Wir haben den Monolog von Bertolt Brecht genommen, die jüdische Frau, und haben noch italienische Gedichte eingebaut, um es zweisprachig zu machen. Ihr werdet sehen, was daraus gekommen ist, was daraus entstanden ist. Jetzt höre ich aber auf zu quatschen, denn die Mädels sind sicher sehr aufgeregt und wollen sicher bald mal zeigen, ihr Können zeigen, was sie geleistet haben und was sie leisten werden. Danke sehr und bitte da. E non parlai. Poi cominciarono a prendere gli ebrei. E quando presero i sindacalisti, io non parlai. Quando presero gli studenti di teologia, ammassarono gli omosessuali e raccolsero gli immigranti e gli zingari. Io non parlai. Als sie mich holten, poi vennero per me e non c'era più nessuno che potesse parlare. Gab es keinen mehr, der protestieren könnte. Parla Judith Kite. Ah, è lei, dottore. Buonasera. Le telefono solo per dirle che dovrete cercarvi un altro quarto al Bridge, perché io sto partendo. No, non per molto tempo, ma qualche settimana sarò via certo. Vado ad Amsterdam. Sì, la primavera dicono che là sia bellissima. Ci sono dei miei amici? Sì, al plurale. Ci creda o non ci creda. Come farete per il Bridge? Ma se sono già 2 settimane che non giochiamo più. D'accordo, è stato anche per il raffreddore di Fritz, quando fa così freddo non è più il caso di giocare a Bridge, è quello che dicevo anch'io. Ma no, dottore, come avrei potuto? Da voi c'era anche la madre di Tessa in visita. Lo so, perché mai avrei dovuto pensare a una cosa simile. Ma no, la decisione non è stata così improvvisa, in realtà. Ho dovuto rimandare di giorno in giorno, ma adesso devo proprio... Già, sì. Anche le nostre spedizioni al cinema dovranno terminare. Mi saluti Tecla. Potrebbe magari telefonargli domenica. Sì, certo. Con piacere. Addio. Mio figlio, mein Sohn, Ich hab dir die Stiefel und dies braune Hemd geschenkt. Hätte ich gewusst, was ich heute weiß, hätte ich lieber mich aufgehängt. Mein Sohn, als ich deine Hand sah, erhoben zum Hitlergruß, wusste ich nicht, dass dem, der ihn grüßet, die Hand verdorren muss. Mein Sohn, und ich hörte dich reden von einem Heldengeschlecht, wusste nicht, ahnte nicht, sah nicht, du warst ihr Folterknecht. Mein Sohn, und ich hörte dich marschieren hinter dem Hitler her, wusste nicht, wer hinter ihm auszieht, zurückkehrt er nimmermehr. Mein Sohn, du sagtest mir, Deutschland wird nicht mehr zu kennen sein. Wusste nicht. Es wird werden zu Asche und blutigem Stein. Sah das braune Hemd dich tragen, hab mich nicht dagegen gestemmt, denn ich wusste nicht, was ich heute weiß. Questo camicia porta la morte. Es war dein Totenhemd. Herr Judith Keit, ich möchte Frau Söck sprechen. Lotte, ich wollte rasch adieu sagen. Ich verreise auf einige Zeit. Nein, mir fehlt nichts. Nur, um mal ein paar neue Gesichter zu sehen. Ja, was ich sagen wollte. Fritz hat nächsten Dienstag den Professor hier zu Abend. Ich dachte, ihr könntet dann vielleicht auch kommen. Ja, Dienstag. Nein, ich wollte nur sagen, ich fahre heute Nacht. Es hat gar nichts zu tun damit. Ich dachte nur, ihr könntet dann vielleicht kommen. Nun, sagen wir, obwohl ich nicht da bin, nicht? Das weiß ich doch, dass ihr nicht so seid. Und wenn, das sind doch unruhige Zeiten. Alle Leute passen so auf. Ihr kommt. Wenn Max kann. Ach, er wird schon können. Der Professor ist auch da. Sag's ihm. Ich muss jetzt abhängen. Adieu. Francesca! Gertrude! Sei tu, Gertrude. Parla Judith, scusa se ti disturbo. Grazie. Volevo chiederti se puoi occuparti per un po' di Fritz. Io parto e starò via qualche mese. Penso che tu, come sua sorella... Ma perché non ti va? Ma no, non avrà fatto da lei di questo. Certo, non per Fritz. Sì, lui lo sa che noi non andavamo molto d'accordo, ma... Allora ti chiamerà lui, se vuoi. Sì, glielo dirò. È tutto abbastanza in ordine. Certo, la casa è un po' troppo grande. Quello che si deve fare nel suo studio lo sa Ida. Lascia che faccia lei. È una donna intelligente e sa le sue abitudini. Ah, e un'ultima cosa, e ti prego, non fraintendermi. Non gli piace parlare prima di pranzo. Ti prego, ricordatene. Io mi sono sempre astenuta dal farlo. Ti sarei grata se non cominciassimo a discutere adesso. Il mio treno parte fra poco. E non ho ancora finito di fare i bagagli. Fagli una maglia da sarto, si è ordinato il soprabito. Sta attenta ai suoi vestiti. Dormi sempre con la finestra aperta. No, non credo che si debba allenare. Ma adesso devo smettere. Grazie. Grazie mille, Gertrude. Comunque ci riscriveremo. Addio. Still, still, mein armes Söhnchen, sei still. Weine mich nicht um ein bisschen Verstand. Weiß ja noch nichts vom Vaterland, dass ich dein Leben einst haben will. Sollst fürs Vaterland stechen und schießen, sollst dein Blut in ein Acker gießen. Wenn es der Kaiser befiehlt und will, still, mein armes Söhnchen, sei still. Trink, mein süßes Söhnchen, von meiner Brust. Trinke, dann wirst du ein starker Held. Ziehst mit den anderen hinaus ins Feld. Vater hat auch hinausgemusst. Vater ward wider Willen und Hoffen von einer Kugel ins Herzen getroffen. Aber es ist nun seine und meine Lust. Trink von der Mutters Brust. Schlaf, schlaf, mein Söhnchen, und schlaf. Weiß ja noch nichts von Unheil und Not. Weiß nichts vom Vaters Heldentod, als ihn die bleierne Kugel traf. Früh genug wird der Krieg und der Schrecken dich zum ewigen Schlummer erwecken. Friede behüt meines Kindes Schlaf. Schlaf. Ein Söhnchen. Anna, hier ist Judith. Du, ich fahre jetzt. Nein, nein, es muss schon sein. Es wird einfach alles zu schwierig hier. Zu schwierig. Ja, nein, Fritz will es nicht. Er weiß noch gar nichts. Ich habe einfach gepackt. Ich glaube nicht, dass er viel sagen wird. Es wird einfach zu schwierig für ihn, rein äußerlich. Nein, darüber haben wir noch gar nichts verabredet. Wir sprachen doch überhaupt nie darüber. Nie. Nein, nein, er war nicht anders. Im Gegenteil. Ich wollte, dass ihr euch seiner ein wenig annehmt. Die erste Zeit. Ja, sonntags besonders. Und redet ihm zu, dass er umziehen soll. Die Wohnung ist einfach zu groß für ihn. Ich hätte dir gerne noch Adieu gesagt. Aber du weißt ja. Der Portier. Nein, nein, komm nicht auf die Bahn, auf keinen Fall. Adieu. Ich schreib dir mal. Ja, sicher. Hai sentito il telefono? Mi pare un pazzo. È andato qualcuno a rispondere, eh? Ebrea, credo. Guarda, ha lasciato il ricevitore staccato. Pensa se fosse capitato a una di noi. Lei, chi vuoi che la strilli? Ma anche lei ha poco da stare allegra. Beh, te ne vai e lasci il ricevitore staccato? Questo non è compito mio. Io qui sono pagata per fare la cucina. Ah, è caldo, me l'hai fatta apposta. Io quel coso non lo tocco più. Che ne so io se quel coso è caldo o freddo? l'avrà tenuta in mano all'ebrea! Le sudano le mani all'ebrea, hai notato? Sì. Dunque io parto, Fritz. Ho forse tardato anche troppo, devi scusarmi, ma... Fritz, non puoi più cercare di trattenermi. Non puoi. È evidente che finirei per rovinarti. Lo so che non sei un vigliacco, che non hai paura della polizia, ma c'è di peggio. Non ti metteranno in un campo di concentramento, ma ti vieteranno l'accesso alla clinica, domani o dopodomani. E allora non direi niente, ma ti ammalerai. E io non voglio vederti qui, a girellare per casa, a sfogliare riviste. Credimi, se me ne vado è per puro egoismo, non per altro. E non dirmi niente. Non dirmi che non sei cambiato, perché non è vero. La settimana scorsa hai scoperto con molta obiettività che la percentuale degli scienziati ebrei non è poi tanto grande. Si comincia sempre così, con l'obiettività. E perché adesso continui a ripetermi che mai come ora ho dato prova del mio nazionalismo ebraico? Sì, sono nazionalista. È come un contagio. Fritz, che destino è stato il nostro? Ich habe es dir nicht gesagt, dass ich fort will. Seit langem fort will. Weil ich nicht reden kann, wenn ich dich ansehe, Fritz. Es kommt mir dann so nutzlos vorzureden. Es ist doch ja alles schon bestimmt. Was ist eigentlich in sie gefahren? Was wollen sie in Wirklichkeit? Und was tue ich ihnen? Ich habe mich nie in die Politik gemischt. Hör ich, durch Dellmann. Ich bin doch nur eine dieser Bourgeois-Weiber, die Dienstboten halten und so weiter. Und jetzt sollen nur noch die Blonden da sein dürfen. Fritz, in letzter Zeit habe ich oft daran gedacht, wie du mir vor Jahren sagtest, es gebe wertvolle Menschen und weniger wertvolle. Die einen bekämen Insulin, wenn sie Zucker haben. Und die anderen bekämen keins. Und das habe ich eingesehen, ich Dummkopf. Und jetzt haben sie eine neue Art, diese Einteilung gemacht. Und jetzt gehöre ich zu den weniger Wertvollen. Es geschieht mir recht. Eccolo che arriva! Che faccia! Si vede che è uscito a stomaco vuoto! Telefonate del genere non sono fatte per mettere appetito. Ma chi pretende? Non aveva che da non sposare una giudia? Perché dici così? Non è bello. Se le autorità dicono così, vuol dire che così deve essere. E ogni giorno è peggio. Sai cos'è? Io do gli 8 giorni e me ne vado. Davvero? E perché? Case dove ci sono giudei non è igienico stare. Chissà che tu non abbia ragione. Sì, facci i bagagli. Non devi far finta di non aver notato niente in questi ultimi giorni, Fritz. Posso sopportare tutto meno che questo. Di non guardarci dritto negli occhi nell'ultima ora che ci resta. Non possiamo dare questa soddisfazione a quei bugiardi che costringono tutti a mentire. 10 anni fa, quando qualcuno diceva che non si notava affatto che io fossi ebrea, tu replicavi, altro che. Era una cosa che mi faceva piacere, era sincerità. Perché non avere adesso il coraggio di dire le cose come stanno? Facci i bagagli, perché altrimenti non sarai più primario. Perché quelli della clinica ti salutano già spento e tu non riesci più a dormire la notte. Non voglio che tu mi dica che non devo andarmene, anzi, mi affretto perché non voglio che tu un giorno mi dica che devo andarmene. È una questione di tempo. Il carattere È questione di tempo. Ha una certa durata, proprio come un guanto. Ce ne sono di buoni che durano un pezzo, ma nessuno dura in eterno. Tiepide case, voi che trovate tornando a casa il cibo caldo e visi amici, considerate se questo un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare. Vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca. I volti dei vostri nati si toccano da voi. No, non sono affatto in collera. Ma sì che lo sono. Perché devo tollerare tutto questo? Was ist falsch an der Form meiner Nase oder der Farbe meines Haars? Ich soll weg von der Stadt, in der ich geboren bin, damit sie keine Butter zu geben brauchen. Okay, das ist die Wahrheit, wie sie ist. Sì. Anche tu. Ihr findet die Quantentheorie und den Trend in der Burg. Lasst euch von Halbwilden kommandieren, dass ihr die ganze Welt erobern sollt, aber nicht die Frau haben dürft, die ihr haben wollt. Künstliche Beatmung und jeder Schuss sein muss. Ja, ihr seid... ungeheuer, oder? Speichellecker von ungeheuer. Sì, non è ragionevole da parte mia. Ma a che serve la ragione in un mondo simile? Te ne stai seduto lì? Vedi tua moglie che fa i bagagli? E non dici niente? Die Wände haben Ohren wie, aber hier sagt ihr alle nichts. Die einen hören und die anderen schweigen. Che schifo. Dovrei starmene zitta anch'io. Se ti volessi bene, tacerei. Io ti voglio bene davvero. Sì, porto la biancheria. È biancheria, fine. Ne avrò bisogno. Ho 35 anni, non sono ancora vecchia, ma... troppe esperienze non me le potrò più fare. Nel prossimo paese nel quale vado, non deve succedermi nulla di simile. Se mi trovo un altro uomo, devo sapermelo tenere. Und... sage nicht, du wirst Geld schicken. Denn... tu weißt, das kannst du nicht. Non star lì con l'aria di farmi credere che si tratta di una cosa provvisoria. 4 settimane. Questa cosa non dura solo 4 settimane. Lo sai benissimo. E lo so anch'io. Perciò non dirmi che si tratta di poco tempo, mentre mi forgi il martello di pelliccia che non mi occorrerà prima dell'inverno. E... non parliamo di disgrazia. Parliamo di vergogna. Oh, Fritz. Mi chiamo Francesca Stern, sono di Merano e sono soprannominata Fanny. Sono nata il 22 dicembre 1905. Sono stata arrestata il 16 settembre 1943 e portata alla casa Balillo. Internata nel lager di Reichenau il 16 settembre 1943 fino al 7 marzo 1944. Era solo un passaggio. Benjamin Geltude, geboren am 22. September 1873 in Iran. Datum der Verhaftung 20. September 1943. Inhaftierungsort Casa del Balillo. Durchgangslager Reichenau. Internierungsdauer 16.09.43 bis 7.03.44. Eckstein Ruth Rosa, nata all'8 del primo 1929. Residente Reno, data d'arresto 19 del 9 1943. Luogo d'arresto, prigione di Bolzano. Periodo d'arresto 17 del 9 1944 fino al 28 del 9 1944. Arrivata ad Auschwitz nel 1944, non sopravvissero. Schlaf, mein Kind,